9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon inizio di settimana segnata nelle ore alle nostre spalle dalla terza versione dell'accordo europeo per salvare la Grecia. La terza, hanno fatto bene il mercato secondo me, come abbiamo visto, a respingere le prime due. La terza, nella differenza si vede dalla cifra, prima 30 miliardi, era 2 mesi fa, poi 45 miliardi, un mese fa, oggi sono 110 miliardi. Comunque abbiamo deciso oggi di non dedicare la puntata all'ennesimo sviluppo greco, anche se mi corre l'obbligo di dire che vi dichiaro già oggi che non sono di quelli che pensa che gli aiuti stanziati ieri e i selvaggi tagli deliberati dal governo greco serviranno a fermare la spirale, e quindi volevo dirvi, ci tenevo a dirle che credo che questa crisi continuerà, non solo greca, ma di tenuta dei paesi più deboli dell'euro. Credo che alla Grecia non basteranno i tagli, mi auguro che non bastino i tagli, perché quei tagli mandano quel paese in una spirale di deflazione terribile, e quindi ci vorrà qualche ristrutturazione del debito, quindi perderanno soldi banche e soprattutto, fine di questa digressione prima di entrare nel tema della nostra puntata, credo che dobbiamo tutti riflettere su che cosa voglia dire questa crisi, perché questa crisi significa che l'euro è uno scudo di forza, ma solo per i paesi virtuosi. Ma la virtù non è solo quella dei conti pubblici in regola. Abbiamo imparato dal caso greco e dal caso spagnolo, portoghese, irlandese, paesi con problemi diversi e forza economica diversa, che c'è un'altra virtù, non c'è solo quella dei conti pubblici, ci deve essere, perché l'euro non diventi un boomerang che fa male invece che far bene ai paesi che ne sono membri. Ci vuole un grande rigore anche nei salari, cioè non bisogna solo avere i conti in regola e non truccare e non mentire sui conti pubblici, bisogna non pagare, purtroppo, o per fortuna, dipende dai punti di vista e da che lavoro facciate, i propri dipendenti, se non molto meno di quanto li paghino i tedeschi, perché altrimenti se voi li pagate di più, e questa è la morale della lezione greca, perdete ulteriormente competitività, vi esponete a disavanzo della bilancia dei pagamenti e commerciale, e alla fine scatta la lama. E quindi a un'Europa non solo di virtù nei conti pubblici, ma di grande quaresima nei conti privati, è meglio che ci abituiamo tutti, e per questo dico che la crisi continuerà. Ma questo editorialino del tutto follinea rispetto ai problemi di oggi era solo per appuntare un bigliettino in una settimana che avrà come tema poi importante anche le elezioni nel Regno Unito, quindi ci vuole grande attenzione all'Europa. Invece oggi, in questo inizio settimana, questo lunedì 3 maggio, lo dedichiamo a un tema su cui apparentemente siamo tutti d'accordo, cioè tutti abbiamo individuato da anni nelle energie alternative, nell'ecocompatibile, uno dei motori obbligati delle tecnologie, della crescita tecnologica, uno dei motori obbligati oltretutto per la risposta alla crisi da un anno e mezzo a questa parte. Però una volta che siamo tutti d'accordo su questo a parole, di fatto vogliamo occuparci, numeri alla mano, della domanda se in Italia di tutti questi incentivi, vedremo quanti sono tanti incentivi pubblici, si fa davvero un uso efficiente, oppure dietro il facile slogan del essere tutti d'accordo con energie alternative, non è che per caso in Italia, come al solito, si buttano dalla finestra denari, visto che l'attenzione, la sua attenzione si abbassa perché siamo tutti d'accordo sulle energie alternative? Ecco, questa è la domanda un po' controcorrente, però controcorrente con delle solide basi numeriche su cui riflettere. Io prima la smetto qua, prima di presentare gli ospiti, ma vi faccio notare che in Italia di incentivi pubblici ce ne abbiamo tanti e molto discussi. Io sono un amico storico, per esempio, del cosiddetto CIP 6, formula con la quale gli addetti ai lavori fanno passare gli aiuti alle energie alternative in bolletta, ma dove le energie alternative sono quelle assimilate alle alternative. Questo meccanismo del CIP 6, che sono più di 2 miliardi oramai l'anno in bolletta, malgrado i tentativi di diminuirle anno per anno, è stato all'inizio concepito come un meccanismo che con le assimilabili, niente affatto alternative, dava una greppia a tutti i produttori all'epoca concorrenti del monopolista, poi rimasto incumbent Enel, per accomunarli tutti in una bella greppia di sussidi a spese del della bolletta del consumatore, in maniera tale che insomma ci fosse un meccanismo per cui anche il concorrente dell'Enel aveva il suo fiero pasto. Ecco, quello è per esempio è l'incentivo storico alle alternative, e non è affatto un incentivo alle alternative, e sono miliardi l'anno. Poi c'è il conto energia, quello dell'eolico, ecco. Tutto questo ha fatto un approfondimento il Sole 24 Ore sabato scorso, richiamo solo questo, ha portato nel solo campo del fotovoltaico in Italia ad avere la bellezza di domande depositate per l'allacciamento a Terna, il gestore della rete elettrica italiana, e all'Enel, 45.000 domande per la bellezza di 152.000 megawatt. Stiamo parlando del solo fotovoltaico. Allora, 152.000 megawatt sono tre volte la richiesta elettrica massima dell'ora di punta dell'intera Italia registrata nel dicembre 2007. Tre volte. E se andiamo a vedere dove si concentrano poi tutte queste domande di impianti fotovoltaici, il sud batte praticamente il resto d'Italia, perché ci sono su questi oltre un terzo di tutte le domande sono nel sud, con la bellezza di 89.000 megawatt richiesti e 19.000 domande, e si chiede al Sole 24 Ore, mi sembra giusto chiederselo, se in tutte queste domande fotocopia non conti il fatto che c'è qualcosa di fortemente sospetto, ecco, diciamo così, e limitiamoci a questo per il momento. Però c'è chi oggi presenta una ricerca in cui, numeri alla mano, si va a vedere l'efficienza comparata degli incentivi pubblici in Italia e negli altri paesi europei. E quindi entriamo subito in medias res, cedendo la parola a chi presenta questa ricerca. E abbiamo collegato con noi Carlo Stagnaro, direttore di ricerca e studi dell'Istituto Bruno Leoni. Buongiorno Stagnaro. Buongiorno. E gli farà da controcante, o per così dire, Francesco Ferrante, che ringrazio, il senatore del PD e componente della Commissione Ambiente e Territorio, nonché vicepresidente del Kyoto Club. Buongiorno senatore Ferrante. Buongiorno a voi. Allora Stagnaro, un po' di numeri di questa ricerca di oggi. Beh, allora, quello che noi abbiamo cercato di fare è stato capire quale potrebbe essere l'effettivo impatto occupazionale degli investimenti nelle fonti verdi e a che costo. Perché ci siamo fatti questa domanda? Perché molto spesso si dice che mobilitare risorse tecnicamente non pubbliche, ma di fatto pubbliche, nel senso che gli incentivi non passano attraverso il Ministero del Tesoro, ma vengono direttamente prelevati dalla bolletta dei consumatori elettrici, famiglie e imprese, per essere trasferiti in un secondo momento ai produttori di energia rinnovabile, questa massa di sussidi viene giustificata sulla base del fatto che non solo dobbiamo, come si dice, decarbonizzare la nostra economia e quindi puntare a un risultato ambientale, ma anche utilizzarla, specialmente in una congiuntura come questa, per uscire dalla crisi e in particolare combattere la disoccupazione. Ora, se questo fosse vero, noi ci troveremmo davanti ha uno spettacolare strumento, come si dice, a doppio dividendo, nel senso che contemporaneamente consente di raggiungere un obiettivo ambientale e un obiettivo economico. Se le cose stanno diversamente, raggiungere l'obiettivo ambientale ha un impatto dal punto di vista economico e quindi richiede un sacrificio. Questo non significa che non bisogna raggiungere l'obiettivo ambientale, ma significa semplicemente che bisogna essere consapevoli del fatto che non è gratis. Noi abbiamo anzitutto cercato di capire quanti sono i posti di lavoro verdi attualmente esistenti in Italia. È difficile capirlo perché le stime sono molto, molto variabili tra di loro, e noi ci siamo basati sostanzialmente su stime esistenti, non abbiamo prodotto un valore nostro per quel che riguarda l'oggi. Quello che abbiamo trovato è che si può supporre che nella fonte eolica oggi siano occupate tra le 9 e le 25.000 persone e nel fotovoltaico tra le 1.200 e le 3.200 persone. Sulla base di questi numeri abbiamo definito un traguardo al 2020, prendendo come traguardo quello che il governo italiano nel 2007 definì il potenziale massimo teorico raggiungibile dalle fonti eoliche e solare in particolare, e abbiamo cercato di capire quale andamento occupazionale si sarebbe ottenuto. Che risultato abbiamo avuto? a seconda degli scenari abbiamo definito uno scenario tra virgolette ottimistico sulla base delle stime ottimistiche per il 2008-2009 e uno scenario pessimistico, abbiamo trovato che tra eolico e fotovoltaico si potrebbero creare tra i 50 e i 120 mila posti di lavoro nel 2020. A che prezzo? A un prezzo ovviamente di una quantità crescente di sussidi che viene erogata anno per anno e che dovrebbe culminare complessivamente attorno, secondo le nostre stime, ai 6 miliardi di euro all'anno nel 2020. Questa è una stima che riteniamo abbastanza affidabile perché non si discosta molto dalle stime dell'autorità per l'energia, che parla di 7 miliardi all'anno ma include anche altre fonti. Ora, uno può dire, benissimo, investire n miliardi all'anno. Perdoni un secondo, per capire meglio, voi su quali fonti l'avete fatto? Sull'eolico? Eolico e fotovoltaico. Noi siamo concentrati su eolico e fotovoltaico, che sono i due pezzi più importanti di economia verde nel nostro paese. Avremmo voluto inizialmente fare un lavoro di più ampio spettro, purtroppo c'è una scarsissima trasparenza sui dati, in particolare sull'ammontare dei sussidi, che di fatto ci ha impedito di seguire anche altre fonti. Ora, quello che dicevo è che ovviamente in qualunque settore economico, se si buttano dei soldi, questi soldi verranno raccolti da imprese e in parte creeranno occupazione. La domanda è, visto che gli investimenti verdi vengono tra virgolette venduti anche come strumento proprio per la creazione di posti di lavoro, queste risorse creano più o meno posti di lavoro di quanti ne creerebbero se fossero investiti in altri settori dell'economia? Cosa vuol dire investirli in altri settori dell'economia? Per esempio non farli gravare sulle bollette, ma lasciare che il costo dell'energia elettrica rifletta effettivamente il suo valore di mercato. Per misurare questo dato noi abbiamo stimato il valore aggregato dei sussidi e abbiamo calcolato sulla base di questo lo stock di capitale medio per lavoratore, che è un indicatore che dice se un settore economico ha più o meno alta intensità di lavoro. Quello che abbiamo trovato è abbastanza sorprendente, perfino per noi, nel senso che abbiamo trovato che in media con l'ammontare di capitali che investiti nelle fonti verdi creano un posto di lavoro verde, se questi soldi fossero investiti nell'economia in generale potremmo avere la creazione di 4,8 posti di lavoro e se fossero investiti nel settore dell'industria potremmo addirittura avere in media la creazione di 6,9, quindi di fatto 7 posti di lavoro. Perché sottolineo il confronto con l'industria? Beh, perché i consumatori industriali sono quelli che proporzionalmente pagano, sopportano di più il peso dell'incentivazione, l'industria energivora, anche in termini di svantaggio competitivo, e quindi questo è un benchmark, come dire, utile a cui guardare. Risultato del nostro lavoro: se l'obiettivo degli investimenti verdi è salvare l'ambiente, possiamo discutere se sia lo strumento migliore, se sia economicamente efficiente e così via, ma se l'obiettivo o uno degli obiettivi è creare occupazione, sicuramente questo non è uno strumento efficiente. Ecco, avete sentito, fatta una stima, trattino, approssimativa, perché non si è d'accordo nemmeno sulle rilevazioni statistiche degli incentivi pubblici, trattino, di quanto si tradurrà in posti di lavoro concreto gli investimenti, i sussidi pubblici nel settore delle energie alternative, intesi come fotovoltaico e eolico, il risultato è che spenderemo ciò che equivalrebbe a 7 volte occupati aggiuntivi nell'industria, 7 volte. Ecco, questo è un dato che potrà far riflettere, ma intanto mettiamolo lì al centro dell'attenzione e io chiedo immediatamente ovviamente a senatore Ferrante cosa ne pensa. A voi a casa chiedo di farci telefonate sul tema: vi sembra che nella vostra regione, nel vostro comune, per gli incentivi agli interventi di energia, di minor dispendio energetico nelle case eccetera, vi sembra che i sussidi siano ben dati o che ci sia dietro qualche punto interrogativo, come pare per esempio a noi sul fotovoltaico a rischio bolla e dove molti chiedono gli incentivi, ma di sicuro non per stare sul mercato in vaste aree, soprattutto al sud, mi dispiace dirlo, del paese, punto interrogativo. Allora, senatore Ferrante. Allora, intanto io ho letto la sintesi del Sole dello studio di Stagnaro e aspetto di leggerlo completamente, nella sua completezza, perché comunque lo trovo utile, perché noi dobbiamo stare attenti a questa storia delle incentivazioni del rinnovabile, perché è giusto mantenere un'attenzione, peraltro sul fotovoltaico in particolare il governo avrebbe già dovuto emanare i nuovi incentivi, che saranno sicuramente più bassi di quelli attualmente presenti, perché è normale che sia così, la tecnologia va avanti e quindi devono diminuire gli incentivi. Questo primo punto insomma, su questo già bisogna riflettere, perché temo che la stima che fa Stagnaro e che fanno anche altri, per esempio l'autorità, su quanto ci costerebbero gli incentivi al 2020, una cifra sicuramente eccessiva e insostenibile, ma anche inutile, perché noi al 2020 è prevedibile che lo sviluppo tecnologico permetterà di avere incentivi molto più bassi di quelli che ci sono, e quindi già cambiando uno degli elementi della ricerca, forse la quantità di soldi che servono a creare un posto di lavoro cambia radicalmente. Ma il punto che vorrei sottolineare, partendo dalla sua premessa, cioè quando lei diceva siamo tutti d'accordo sulle fonti rinnovabili, intanto forse ci siamo arrivati troppo tardi a questa comunanza di intenti, e forse non è sincera da parte di tutti, lo dico perché... No, la interrompo solo per dire che a onor del vero, no, ma giusto per ricordare a casa, il nostro mix energetico le dà ragione, nel senso che abbiamo scelto, per via di quell'insensato referendum di 22 anni fa, un mix energetico in cui il più di tutte le ultime generazioni di centrali di produzione, se rimaniamo a energia elettrica, ha questa cogenerazione mista che non c'entra niente e che ha un impatto devastante sui conti del paese. Per completare anche a me il discorso, chiuso dell'inciso, riusciamo ad avere degli elementi di discussione, perché se invece interrompe me è difficile poi riuscire ad avere un ragionamento. Non è il caso di arrabbiarsi, sì, figuri. Sto zitto, guardi, parli. Grazie. Dicevo che all'inizio degli anni 90 questo paese aveva una leadership nel campo del solare e dell'eolico che ha smarrito, perché appunto per 10 anni invece non abbiamo fatto nulla, abbiamo dato, sono d'accordissimo con lei, i soldi a energie che non erano affatto rinnovabili attraverso quel sciagurato meccanismo che erano i CIP 6. Peraltro vorrei ricordare che i CIP 6 in questo paese non si possono più dare grazie all'emendamento parlamentare che noi ottenemmo con la finanziaria del 2007, e che, visto che trovo che siamo molto d'accordo sul fatto che quel meccanismo fosse demente, siccome ogni tanto provano a rimetterlo dentro, magari se sorvegliamo insieme che non ci sia nessun tentativo da quel punto di vista, facciamo una battaglia comune utile al paese. Ma tornando alle rinnovabili, quindi sono arrivate, hanno avuto un impatto, adesso stanno avendo un impatto anche abbastanza significativo, perché l'anno scorso un kilowattore su 4 di quelli che produciamo in questo paese viene da fonti rinnovabili, ovviamente in gran parte grazie al vecchio idroelettrico, ma anche perché finalmente abbiamo messo più di 1000 megawatt di fotovoltaico, abbiamo prodotto più di 6 terawattore con l'eolico, perché finalmente iniziano a funzionare quegli stessi incentivi. Vorrei che su questo ci chiarissimo tutti, perché sennò facciamo la figura di quelli che stanno fuori dal mondo, quegli stessi incentivi, almeno in meccanismo uguale a quello che è funzionato in tutti gli altri paesi del mondo e che ha permesso per esempio alla Germania, che 10 anni fa, 20 anni fa, invece di fermarsi come ci siamo fermati noi, puntò con qualche anticipo rispetto agli altri a creare in quel paese 250.000 posti di lavoro. Ora, e chiudo, le stime sul futuro sono sempre complicate da fare, necessarie da fare, per questo è utile anche il lavoro che ha fatto Carlo Stagnaro, in modo tale che possiamo avere più dati davanti a noi per prendere decisioni giuste per il paese, ma sono complicate. Io vi faccio un esempio di altro genere, si parla tanto, appunto lei l'ha citato anche rispetto al referendum, adesso di rilancio del nucleare, ma lì stiamo parlando di investimenti per qualcosa come 30 miliardi, più o meno, sempre, perché stiamo parlando di futuro, quindi difficile stabilire, ma circa 30 miliardi per creare o 2.000, come dice l'Enel, o come dice l'ANI, 10.000 posti di lavoro. Ma allora di che cosa, sento che Segnaro invece fa una stima intorno ai 100.000, quindi quando parliamo del futuro abbiamo veramente maneggiamo delle cifre difficili. Io più modestamente dico che se in Germania ha funzionato, in Spagna ha funzionato, in tutto il mondo, tutti i paesi, gli inglesi che votano giovedì, tra Cameron, Clegg e Brown, fanno a gara a pensare a forme di incentivazione di queste forme di energia che aiutino a uscire dall'era del fossile, come dicono loro. Quindi se funziona dappertutto, pensare che noi siamo un po' più furbi degli altri e quindi non lo facciamo, mi sembra francamente non proprio l'ideale, ecco. Eccoci tornati in studio. Nella prima parte della trasmissione abbiamo fatto una riflessione insieme a Carlo Stagnaro, che per l'Istituto Bruno Leoni oggi presenta in un convegno a Milano questo studio su quanta occupazione aggiuntiva si fa con il sussidio pubblico e gli incentivi nelle energie rinnovabili nel nostro paese nei prossimi anni, dove per rinnovabili però noi non prendiamo la nozione assimilate alle rinnovabili del CIP 6, il meccanismo che drena miliardi ogni anno dalle nostre bollette e che è una greppia per accomunare tutti i concorrenti dell'Enel da anni a cose che con le rinnovabili non c'entrano niente, perché il 70% di quella componente che grava fino al 5% della bolletta è andato a cose che con le rinnovabili non c'entrano niente, e per anni ci siamo battuti senza che in buona sostanza questa battaglia venisse recepita. Si è fermato al solo fotovoltaico e all'eolico. Avete sentito che la stima della ricerca di Stagnaro e degli amici dell'IBL è un'occupazione aggiuntiva pari a un settimo di quella se lo stesso investimento avvenisse nell'industria. Le considerazioni del senatore Ferrante, è vero, ci siamo mossi tardi e male rispetto ad altri, rispetto alla Germania, e soprattutto però ad accomunare il sostenitore della ricerca critica e anche però il suo obiettore, è il fatto che sui numeri in Italia già non si è mai d'accordo, ma sulle stime, in questo caso sugli effetti veri di una quantità di incentivi che nessuno sa quantificare con certezza, tanto poi siamo noi a pagarli, come vedete la forbice è troppo ampia, cioè non si è d'accordo e non si hanno cifre nemmeno credibili e condivise, e questo è come al solito il punto di partenza di un paese che si candida a fare pasticci e tanto, ripeto, li paghiamo noi. Sentiamo un po' di telefonate prima di passare poi non solo alla parte distruttiva, che è quella in cui che mi riesce meglio, ma anche poi a una parte costruttiva sul tema delle rinnovabili vere. Vediamo un pochino di voi come la pensano e che esperienza hanno avuto. Per esempio cominciamo da Dario dalla provincia di Roma. Prego Dario. Sì, buongiorno. Salve, io ho installato circa un anno fa un impianto fotovoltaico e penso che questa, diciamo, legislazione vigente che c'è in Italia sia una delle migliori che c'è attualmente al mondo. Sono pienamente soddisfatto, diciamo, dell'installazione che ho fatto, anche perché i costi sostenuti inizialmente sono stati elevati, però proprio grazie a questi incentivi che ci sono sono in grado, diciamo, di recuperare bene negli anni l'investimento. Io produco circa il 100%, diciamo, del mio fabbisogno tramite fonte rinnovabile e penso, diciamo, anche rispetto alle cifre che sono state dette prima, che i posti di lavoro, considerando l'indotto e tutto quanto, siano molto superiori a quei 1.500 che ho sentito prima, perché diciamo sono 3-4 anni, basta vedere le fiere, basta andare un po', diciamo, in giro e vedere che, insomma, l'interesse è parecchio. Il problema ovviamente sono poi tutte quelle varie norme regionali, provinciali e tutto, che pongono un po' degli ostacoli a questa cosa, e soprattutto la cosa importante che penso è quello che ha detto lei, che i CIP 6, il 70-80% di questi incentivi che noi paghiamo in bolletta attraverso la componente, una componente A3 della, sì, bolletta, esatto, e vanno tutti a, come ha detto lei, alle assimilate. Questa è stata, diciamo, la solita norma italiana, che si prepara il decreto, poi a 5 minuti prima ci si mette la parolina che cambia tutto. Grazie. Ma Dario, lei ha un'abitazione monofamiliare oppure sì? Sì, io ho un appartamento, diciamo sono stato abbastanza fortunato perché sono riuscito anche in condominio a mettermi il mio proprio impianto fotovoltaico. Grazie a Dario. Sentiamo Paolo da Ravenna. Paolo, prego. Sì, buongiorno, salve. Io volevo fare una considerazione sempre relativamente ai CIP 6, perché sono pienamente d'accordo, sono stati impiegati male, sono stati, diciamo, introdotti nel mercato per fornire energia elettrica, per far produrre, diciamo, agli industriali. Comunque il succo del discorso è questo: un industriale non... No, ma l'errore, mi perdoni, non è quello, perché sa, produrre energia elettrica, produrre capacità aggiuntiva negli anni in cui avevamo veri seri problemi, il problema è spacciare per rinnovabile ciò che non lo è, sì, prendendo per questo... Pienamente d'accordo, pienamente d'accordo, ecco. Però un industriale ha potuto creare delle centrali elettriche sfruttando i CP6, avendo un ritorno sull'investimento nell'arco di 3-4 anni massimo. A un cittadino viene chiesto un ritorno sull'investimento mediamente di 14 anni. Ecco, questa è una cosa impensabile. Adesso sta parlando di che tipo di impianto che ha un ciclo di ritorno di 14 anni? Fotovoltaico. Io l'investimento ho una certa cifra come ritorno in guadagno di energia elettrica, perché la rivendo, quello che non consumo, vado a pareggio del mio investimento dopo 14 anni. Questa a me sembra una cosa abbastanza sconcertante se si vuole risolvere il problema della produzione di energia elettrica in Italia in modo corretto da fonte rinnovabile. Ecco, cioè. Grazie anche a Paolo. Sentiamo Gianluca dalla provincia di Benevento. Buongiorno dottor Giannino, un saluto a lei e ai suoi ospiti. Io volevo esprimere il mio parere favorevole in sostegno degli incentivi, che ad oggi, secondo me, soprattutto incentivi intelligenti come sono quelli in conto energia, sono l'unico modo per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che altrimenti comunque non sarebbe competitiva rispetto alle fonti fossili tradizionali. Tra l'altro, quel dato che lei dava all'inizio, se non sbaglio, mi pare di aver capito che c'erano state 152.000 megawatt di richiesta alla terna di, esatto, di allaccio, sì, credo che sia un dato un po' falso, tra virgolette. Sono i dati ufficiali Terna Enel. Non contesto il numero, nel senso, mi spiego. Noi abbiamo un obiettivo alla fine, alla scadenza di questo incentivo fotovoltaico, di 1200 megawatt di produzione da fotovoltaico. Se quei 152.000 andassero in porto, vuol dire che già solo da gennaio ad oggi avremmo più che decuplicato, appunto, il nostro obiettivo. Appunto. È per questo che quelle cifre dimostrano che c'è una bolla in atto, cioè c'è chi ci giobba, mi perdoni, perché sennò... Sì, no, questo può essere un'interpretazione, ma un'altra potrebbe essere anche che, siccome per ottenere la connessione in rete, perché quello è il dato vero, bisogna parlare col GSE, col gestore dei servizi elettrici, bisogna passare per la richiesta di allaccio al gestore dell'elettrico locale, se esso Enel, Terna o chi altro, a seconda del tipo di impianto e della dimensione, per poi passare all'iter amministrativo, DIA o autorizzazione unica o quello che sia, per poter poi in realtà realizzare l'impianto, parere iniziale, quell'ottenimento di autorizzazione da parte di Terna o chi altro, è propedeutica alla partenza del progetto. Fare la richiesta non vuol dire che vada in porto l'impianto, vuol dire avere un primo parere di fattibilità, perché potrebbe essere che la potenza da immettere in rete c'è, ma i costi per raggiungere la rete dal mio impianto siano talmente elevati, perché non so, la rete è lì... non è sufficiente, perché mi trovo molto lontano, perché sono previsti molti impianti in zona, quindi varie opere di potenziamento, per cui il mio impianto diventa antieconomico e la mia richiesta muore là. Una volta che la Terna mi ha detto sì, ti allaccia a queste condizioni, a questi costi, che io potrei valutare eccessivi. Chiarissimo, va bene, d'accordo, però io rimango della mia idea che su questo ci sia un fenomeno su cui investigare, che non sia una normale espressione di mercato questo numero di richieste così elevate, soprattutto perché, ripeto, ci sono realtà di alcune regioni del nostro paese che, quando si tratta di incentivi e aiuti, abbiamo visto come le hanno utilizzate. Quindi non perché queste sono energie alternative rinnovabili non ci sono quei fenomeni, perché non credo che esistano i segmenti dell'economia con sussidio pubblico che per definizione si sottraggono quello che abbiamo già visto avvenire nella storia del nostro paese su questo argomento. Presentiamo anche il terzo ospite, mentre continuano ad arrivare altri messaggi e altre telefonate, e non vorrei però, appunto, sembrare un prevenuto, e allora ho deciso di far parlare anche Michele Appendino, che è presidente e amministratore delegato della Solar Ventures. Buongiorno presidente. Buongiorno. Ecco, questa è una realtà serissima del mercato, non solo italiano ma internazionale, ed è caratterizzata da una logica complessiva di filiera, cioè dalla soluzione finanziaria, dall'arrangement finanziario fino alla concezione e alla realizzazione di impianti. Ripeto, non solo in Italia ma all'estero, c'è una recentissima iniziativa in Giordania, pur naturalmente nascendo, come in tutte o spesso in queste imprese delle energie alternative, dall'università. Quindi diciamo, siamo al di fuori di ogni possibile sospetto e siamo nel campo dell'eccellenza. Posso chiederle, Presidente Appagnino, un giudizio intanto su come funziona in termini comparati a Italia rispetto ad altri paesi dove voi operate e che naturalmente conoscete? Gli incentivi e i sussidi pubblici sono stati tardivi, lo abbiamo visto, ma sono efficienti rispetto a come sono oggi congegnati, in una logica in cui prevale ancora il vecchio CIP 6, o che cosa si potrebbe fare di più? Allora, sì, la ringrazio intanto per questa opportunità, ringrazio anche il mio amico Carlo Stagnaro per l'analisi. Da cui dico subito solo un dato che ho sentito: se lui dice 1000 persone impiegate nel fotovoltaico, ce ne saranno dirette e indirette impiegate da noi 100-200, quindi credo che il numero sia almeno 10-20 volte più elevato. Però andiamo per ordine. Allora, l'Italia ha perso il treno. L'Italia negli anni 90, come è stato detto prima, era il leader di questo settore e poi si è passata la palla ai tedeschi e ai cinesi, credo in un modo abbastanza ingenuo, ma è tipico del nostro paese. Detto ciò, col nuovo conto energia, soprattutto il secondo, ma già anche il primo, se parlo di fotovoltaico, che è il settore che conosco io, la legge, devo dire, è scritta bene, anche quella futura che non è ancora approvata, speriamo lo sia presto, e bisogna un po' conoscere il settore per capire certi fenomeni. Il settore chiaramente è diviso tra piccoli impianti e grandi impianti. Allora, se parliamo di grandi impianti, che dove ci sono i 150 o quanti sono gigawatt di richieste alla rete, come diceva il signore prima al telefono, questo non vuol dire nulla, forse da riformare. L'autorità dovrebbe rivedere la metodologia di richiesta degli allacci. Bisognerebbe alzare la caparra, per capire. Alzare la caparra. Noi siamo operativi, vi faccio un esempio, in Thailandia, dove si mette una garanzia bancaria di qualche migliaio di euro, quindi non una roba che uccide, diciamo, lo sviluppo, è già il settore molto diverso. In Francia ti danno la connessione solo una volta che hai ottenuto il permesso, quindi qui la gente, le dico, io ho delle connessioni bloccate da 2 anni, bloccano la rete, non è colpa mia, senza fare nomi, se la regione Sardegna ci mette 3 anni a autorizzare un parco in area industriale, è chiaro che Terna e Enel devono riservare la capacità, quindi lì credo che si risolva in modo normativo abbastanza semplice. Se vediamo il resto, allora prima di tutto è evidente, questi sono comunque investimenti energetici, non sono fatti per creare occupazione, cioè perché sono investimenti ad alta intensità di capitale, quindi è chiaro quando mi si dice mettendo gli incentivi da un'altra parte si creerebbero 7 volte i posti di lavoro, beh, non vuol dire nulla, è un dato di fatto, no? Però credo che questi siano, diciamo, ritorni indiretti, quello che comunque si crea occupazione. La verità, si dovrebbe creare industria, tecnologia. Aspetti, la interrompo qui perché poi tra un minuto, dopo l'informazione sulla circolazione stradale, le do la parola. Allora, Appendino ci stava ricordando la differenza, per quello che riguarda la stima degli effetti di incentivi e così via, tra piccoli impianti e poi industria vera. Esatto, noi dicevo, questi incentivi chiaramente, siccome in Italia sono fatti bene, forse sulla parte della rete si può migliorare. Credo che però alla fine sia importante, anche nelle analisi che fa Carlo, che fanno altri, non fare i conti senza l'oste, cioè dobbiamo ricordarci che questi cosiddetti incentivi, la stessa IEA, l'Organizzazione Internazionale dell'Energia, non li chiama più incentivi, ma li chiama Learning Investment, investimento per lo sviluppo, e sono lì per compensare tutti gli infiniti extracosti che ha l'energia fossile. Lei ha citato il CIP 6 ed è uno. Ricordiamo che nel mondo l'anno scorso ci sono stati 315 miliardi di euro di incentivi alle fonti fossili, 16 alle rinnovabili, quindi questo è il primo dato. Il secondo, guardiamo gli extracosti indiretti. Abbiamo qui sotto gli occhi il disastro che sta succedendo. Scusi, perché lei mi ha fatto fare un balzo con questo 16 sulle rinnovabili che ho stampato. Cioè, io, perdoni, ho letto tre economisti tedeschi dell'IFO tedesco riportati sullo Spiegel la scorsa settimana, che solo la scorsa settimana dicevano che incentivi 2008 e 2009 per la sola Germania, il solo fotovoltaico, 43 miliardi di euro. E lei mi dice che sono questi sono quelli, per attenzione. Ho capito. No, no, stiamo parlando qui la questione non a carico della fiscalità generale, lei sta parlando solo fiscalità generale, quelli siccome li paga la bolletta non ci sono. Ok, allora ci siamo capiti. Sì, esatto. Però vediamo i costi indiretti, abbiamo sotto gli occhi il disastro incredibile delle coste del Mississippi e della Florida, quello è il costo dell'energia, amici miei, cioè sono 10-15 miliardi di euro che finalmente Obama ha detto questo British Petroleum te lo paghi tu, e teniamo presente che se questo fosse applicato ai costi della sanità per chi si prende il tumore, quell'arte centrale che è scoppiata e così via, verrebbero fuori delle cifre del costo del barile che sono stratosferiche. Quindi il mio invito è: non attaccate i poveretti del solare che, come diceva prima il signore, anche con questi incentivi fanno dei ritorni decenti ma non stratosferici. Andiamo a capire meglio qual è l'alternativa, perché se continuiamo di questo, voglio dire, poi lei ha detto l'Italia ha bloccato il nucleare, probabilmente ha ragione, no? Voglio dire, anche lì hanno sbloccato le centrali, dopo 22 anni il nucleo è attivo, sono stati spesi 6 miliardi di euro per disattivarle e ancora non sono disattive. Io credo che nell'energia sia opportuno, non voglio fare, io sono ingegnere, sono nato a Torino, tendo a essere pignolo, bisogna fare l'analisi bene, i numeri non sono chiari, però dove li abbiamo, almeno gli elementi, cerchiamo di tirarli fuori tutti. Quindi il solare alla fine costa molto poco, non ha nessun costo indiretto, una volta che è installato non c'è nessun pericolo di nessun tipo. Certo, serve un po' di soldi all'inizio per lanciarlo. Tenga presente che, visto che in tutta Europa questi soldi vengono riversati sulle bollette elettriche, esistono ricerche di mercato molto chiare che dicono che i tedeschi, gli italiani, i francesi sono contenti di pagare quei 2 euro al mese in più di bolletta pur di avere energia più pulita. Quindi facciamolo dire ai cittadini se sono contenti o meno di questi costi. Per carità. Allora, Appennino, una insieme a Ferrante, una energica controresistenza. Una telefonata, poi sentiamo Stagnaro e di nuovo il senatore Ferrante. Che cosa ci dice Giacomo da Pistoia? Sì, buongiorno a tutti. Volevo dare la mia esperienza riguardo agli investimenti che volevo fare circa 2 anni fa sul fotovoltaico. Io provai a fare 2 investimenti, ovvero uno in casa, quindi un impianto piccolo, e uno volevo far parte di un investimento per un impianto, diciamo, più grande, sopra il megawatt, come investimento dentro una società. Nel piccolo io vidi questo, che gli affari in realtà lo fa non l'investitore, cioè il proprietario di casa che vuole fare un impianto, ma l'azienda che va a impiantarlo. Perché? Perché io vidi, facendo conti alla mano, perché so fare i conti, che il costo al kilowatt picco in un impianto piccolo mi veniva circa 10 euro al kilowatt picco, appunto, quindi era normale che l'investimento mi veniva a ripagarsi in 14-16 anni, come aveva detto anche il precedente ascoltatore. Sì, sì. E quindi non lo feci. Provai a fare l'impianto grande, quindi sopra il megawatt, quindi prendendo una quota di una società che doveva fare investimento. Lì l'impianto costava intorno ai 5 kilowatt picco, per il semplice fatto che i costi venivano, come dire, in impianti grandi vengono razionalizzati, quindi veniva convenienza per fare investimento. E lì invece vidi un altro aspetto negativo, ovvero che l'impianto, l'investimento veniva, come dire, abortito per il fatto che per tutte le procedure che venivano chieste, tutte le autorizzazioni che venivano chieste, si arrivava in un bel momento in cui qualcuno, sapendo fare bene i conti, veniva a chiedere, diciamo, la cosiddetta busta. Aia, ecco la segnalazione di un fenomeno che, secondo me, io ringrazio Giacomo da Pistoia, che ha avuto anche il coraggio pubblico di un po' esporsi, ma insomma io anche so direttamente di regioni italiane in cui nel settore delle rinnovabili questa cosa c'è ed è una cosa non episodica. Quindi, secondo me, bisogna comunque tenere presente che sono fenomeni orizzontali, non dipende dal fatto che gli impianti e gli incentivi siano sulle rinnovabili, però c'è. Ecco, punto interrogativo, quanto questo conti rispetto a un numero di domande così elevate. Stagnaro, ha sentito che Appendino di Solar Ventures e Ferrante del PD, componente della Commissione Ambiente e Territorio, vicepresidente del Kyoto Club, dicono le sue cifre sono un po' troppo strette quanto a proiezione del numero di occupati, e c'è un punto interrogativo intorno poi al fatto che l'effetto comparato comunque non sottostimi il beneficio. Allora, innanzitutto volevo tranquillizzare Michele Appendino sulle cifre che diamo sull'oggi. che per il solare vanno da 5 a 15 mila occupati, e sono cifre comunque non nostre, ma che prendiamo da studi di altri, in particolare CNES e Censis per il solare, e che proiettiamo al 2020 in due diversi scenari, uno più ottimistico e uno pessimistico. Poi Appendino diceva un'altra cosa, diceva: guardate che l'obiettivo delle fonti rinnovabili è salvare il clima e in subordine fare, tra virgolette, politica industriale, non creare occupazione. Questa è una piacevole novità, nel senso che c'è un convegno alla settimana, poi andiamo tutti gli stessi convegni, in cui le fonti rinnovabili vengono presentate come lo strumento per uscire dalla crisi, in particolare dal punto di vista sociale. E quindi io sono pienamente d'accordo che l'occupazione, in una prospettiva corretta, al massimo può essere vista come grasso che cola, però bisognerebbe dirlo alla Commissione Europea, e dalla Commissione Europea in giù a tutti quelli che sostengono il contrario, ed è esattamente questo che abbiamo voluto mettere con Luciano Lavecchia sotto il faro nel nostro studio, senza entrare nel merito di una serie di altre questioni che sono altrettanto importanti, altrettanto interessanti, anzi forse più importanti e forse più interessanti. C'è però un punto su cui io sono assolutamente d'accordo con Appendino, e credo anche con Ferrante, cioè gli incentivi italiani sono relativamente alti, nel senso che sono nella fascia più alta e più favorevole tra i paesi europei, però in parte sono così alti proprio perché tengono conto del fatto che i costi che chiunque voglia investire in fonti rinnovabili deve sostenere, in termini di costi amministrativi, di tempi, di incertezze, eccetera, sono infinitamente più alti nel nostro paese che altrove, e quindi su questi si potrebbe probabilmente incidere con soddisfazione di tutti e tre i suoi ospiti. Bene, quindi la conclusione è che comunque, pur avendo un sistema di incentivi nella fascia alta, cioè generoso, il più della generosità si deve a superare l'abbattimento di quell'onere improprio che è rappresentato dalla fonte quasi di ogni problema, invece che essere una soluzione, cioè, tanto per cambiare, il malo stato italiano. Appuntamento a domani, grazie regia Pietro Lacorte e Alessandro Marco Turni in redazione, linea al Giornale Radio.